per uscire dal fondo che avete affittato, ok? Quindi se avete problemi tipo avete speranze, forse potete per capire come 8.000 euro che ho comprato la Parma da 12 anni fa, qui non verranno dati, perché al di là delle mie capacità tecniche in quel campo specifico, è anche vero che se avete tale capacità non li riesce a fare fuori, cioè chi si fa i numeri si ritrova, non è che li vede, no? Quindi mi dispiace così, vediamo anche di perdere tempo, magari qualcuno aveva queste aspettative. Io faccio una cosa più filosofica e esclusivamente tecnica per quanto riguarda la moneta. Se cosa stessa che andare. Se è stato il modello, c'è qui fabbricato in mano, c'è un convegno, c'è un convegno più giù, e lì magari qualcosa di meno. E allora, dicevo, l'uomo inventando, costretto, l'uomo sempre fa le cose, fare le cose, costretto a scoprire e a superare i limiti del barato, ha inventato un'altra cosa che possiamo dire un barato intermedio, che è appunto la moneta. Mele e pere, bene o male, sono lì, la pera è un po' più dolce, la mela è un po' più sostanziosa, ti do due pere al posto di una mela, e se decidiamo il rate, ossia il rapporto di cambio, nota reciproco che aspettiamo, eccetera, e tiriamo avanti in questo modo. Ma se, come dicevamo prima, uno è capace a dividere, uno fa l'entrato, e quando si mette d'accordo? Ok? Poi c'è un altro, diciamo, limite imbarazzo, forse il numero dei partecipanti e la stagionalità. È un luogo fisico. Io ho le mucche, tu hai le patate, io posso con una mucca, tu mi dai tre patate, il resto che mi dai di resto. Ok? Ci sono varie cose tecniche, questo ci sono dei libri poi anche su internet, però è tutto su questo per barato, che cose che potrei avere, eccetera. Diciamo che non andavo più bene. E quindi l'uomo ha inventato quel barato intermedio che prende il nome di moneta. La moneta nel senso generico del termine. Permetteva appunto di sopperire a questi limiti. Quindi anche con le stagioni io ti porto le mie fragole e tu che un falegname fa 6 mesi mi consegnerai un armadio perché ci vuole il tempo per fare l'armadio eccetera, ma con bisogno non è neanche il legno che dovrei andare a comprare da un altro vizio e quindi era piuttosto complicato. Con la moneta io ti do un qualcosa che è un segno che io ti ho dato queste fragole. Il problema, se faccio bene, all'epoca la potevano risolvere molto facilmente se l'uomo stava in possesso di una cosa molto particolare come la scrittura. Ma qui parliamo di persone veramente ignoranti, cioè anche l'alfabetizzazione qui da noi in Italia è proprio degli ultimi 60 anni forse, l'alfabetizzazione totale. E ancora oggi a volte fanno delle, come si dice, delle statistiche, delle interviste e si scoprono le cose, cioè sempre non so fine a fare ancora oggi. Perché all'epoca basta avere un foglietto, sì, fragole a te, a tizio, tu mi chiedi un tavolo per astenirti, lui per astenirti mi va a buttare, eccetera. All'epoca nessuno doveva aprire, nessuno doveva leggere, e quindi c'era bisogno di una cosa che è estremamente semplice, che sono i segni. Perché loro hanno sempre stato colpito dei segni, il fulmine, il simbolo, le cose, sono segni. Sono cose mnemoniche che colpiscono l'animo, che vengono appunto memorizzate, vengono altamente considerate, anche troppo, prendi il caso religioso, no? Ogni cosa dice, ah, ma le robe vanno a essere segno di Dio. No, vanno a essere, se insegnano una lettera, perché la corrente si è dalla parte, lo vanno a mangiare dalla parte. Alcuni uomini, però, in modo molto furbo, hanno questi segni, provato ad usarli, spesso riuscendoci, per controllare e manipolare il resto della massa. Prendiamo semplicemente la capacità di vedere le eclissi, no? Le eclissi è una cosa normale, se vogliamo, nel mondo dei pianeti. C'è sempre un pianeta che passa davanti a un altro, tipo semaforo, no? Quello che passa davanti anche due cavi di verde. E quindi alcuni uomini, per vari motivi, che poi possiamo vedere se non ci interessa, sapevano prevedere queste cose e passavano per figli dei dei grandissimi sacerdoti. Questo per sottolineare la potenza del segno su popolazioni semplici, fondamentalmente buone, ok? Quindi l'uomo inventò un segno, che era appunto la moneta, e con questo segno teneva traccia delle transazioni che prima effettuavano nel barato. Quindi tu mi dai delle fragole, io ti do un segno, che può essere varie cose. Nel corso della storia dell'umanità, quindi parliamo di millenni, varie cose sono state state impiegate come segni, quindi come moneta, ad esempio conchiglie, bastoni, poi sono state impiegate anche, delle cose che l'uomo spesso lavorava, delle pelli ad esempio, o anche del settore degli animali, pecore, da cui si deriva pecunia, varie cose hanno lasciato la traccia, varie parole. Varie parole hanno lasciato traccia nel corso della storia dell'uomo, bancarotta, capitale, usura, poi vedremo, ogni cosa dipende, ha un nome e ha avuto una nascita ben specifica. Dicevamo conchiglie, pezzettini di stoffa, pezzettini di pelle lavorata in una certa maniera, un qualcosa che presentasse quelle caratteristiche da elevata a moneta, ossia segno riconosciuto. Il segno che voi diventate, voi fate un segno di un muro, si diceva la ragione di zingari sui citofoni, no? Quindi il simbolino aveva un significato, ok? Chi è del gruppo, del clan, della comunità, per l'appunto, come dicevamo, sa cosa significa questo segno. Quindi se tu mi dai una conchiglia, io so che quella conchiglia è un chilo di miele, ok? Due conchiglie e due chili, ma una conchiglia diversa magari vuole avere mezzo chilo, ok? Quindi ogni simbolo, ogni segno, se facciamo un prodotto 39, no? Scriviamo 5, 10, 100, eccetera, perché sono simboli diversi, che vogliono dire cose diverse. Quindi l'uomo ha fatto questa grande invenzione della moneta, di questo simbolo, che nei primi tempi era anche un qualcosa di pratico, perché il simbolo va bene, se il lampo, poi il lampo sparisce. Segno sulla spiaggia, poi quello sparisce. La conchiglia già rimane, però magari si rompe, eccetera. Quindi innanzitutto ha adoperato ciò che lo circondava, perché ad esempio sulle Alpi non avevano le conchiglie, avevano le pelli. Okay? In Canada le pelli di lattoro, e dall'altra parte le pelli di asino. Gengis Khan, la corteccia macinata lavorava in una certa maniera. Ognuno aveva la sua tipa di moneta perché dipendeva anche dall'ambiente stesso. Questo non presentava nessun problema, perché io sono in Canada. La base, la moneta base è la pelle di castoro, mi fa bene, ok? Non c'è nessun elemento strano, esterno, che mi turba, che devo fare uno sforzo aggiuntivo per capirlo, o cose particolari per lenti particolari di elaborazione, nel senso quanto vale quello. Una pelle di castoro aveva tot, una pelle di castoro, una bottiglia di whisky. In base a questo si regolava tutto il resto. Altre anche pratiche, molto semplici, perché le produzioni erano semplici, i bisogni dicevamo erano semplici. Come Baratto ha presentato i suoi limiti cavalcati con l'introduzione della moneta, anche la moneta stessa, questa locale, quindi chi faceva sale, chi le pecore, eccetera, ha cominciato a presentare dei problemi perché i mercati, come Baratto aveva un certo numero di abitanti del borgo, della comunità, ha presentato problemi, anche le stesse comunità, superato un certo tipo di interazioni con altre comunità, che fino a che fate gli scambi nella stessa valle, si facevano delle molte fiere, ecco per l'appunto questa è una di quelle, che è la fiera, dove tu porti ciò che sai, ciò che sai fare, e prendi ciò che ha bisogno. Fino a che si tratta dei due paesi nella stessa valle va bene, ma quando cominciarono ad entrare in comunicazione in paesi diversi, villaggi diversi, anche molto distanti da loro, occorreva un segno, quindi torniamo al segno, che andasse bene a entrambe le comunità. Perché immaginate uno partiva dalle Alpi, partiva non so, anche da un'isola del Pacifico, andava in Canada, tornava con le pelle di castoro. Non era un segno riconosciuto, ok? Come alcuni simboli adesso non sono riconosciuti. E si parla appunto di valute e divise, addirittura divise nazionali, proprio per quello, no? Quindi come sopperire a questo secondo gradino, a questo secondo problema che diventa un gradino in più nella storia monetaria dell'uomo? Occorreva trovare un simbolo, un qualcosa che sia bene un po' a tutti. Tra tutte queste cose, pecore, tavoli, eccetera, eccetera, si cominciava a sognare, questi sono dei cartelli, così non tirate fuori i costetti per appropriarne, di monete in oro, perché l'oro aveva, guarda caso, come ho detto all'inizio, un forte fattore psicologico. L'oro era giallo come il sole, che simboleggiava la vita, come il grano, altrettanto, che simboleggia il pane, quindi un alimento di pace. Fece le potenze rotonde perché tecnicamente non fosse più facile di sapere. Ma perché richiamava il disco punto solare, sembrava un sole, no? Così bello luccicante. Ovviamente nell'area evoluzione dell'uomo ci sono stati altri metalli, anche lì dipendente dalla zona, perché con Nicola Mancellolo continua a usare come in effetti stato con chicchi fino al 1950. Ci sono alcune isole che fino al dopo quello stanno ancora con chicchi. Quindi facciamo che in questa corsa, io l'ho fatto parecchi anni, poi la prima volta inizia penso altrove di approfondire i singoli step di questa camminata. Loro, la gente, la similarità di preziosi, hanno avuto così il pregio di vincere questa gara per diventare la moneta internazionale. Internazionale è una moneta universalmente riconosciuta. Qualcuno è fatto, no? Camerina. Essendo la moneta universalmente riconosciuta, presenta un enorme vantaggio che è quella di poter appunto scambiare qualsiasi bene con qualsiasi altro bene, con il suo tramite, con il solo suo tramite, in qualsiasi parte del mondo. Dice, va bene, questo è molto bello, molto interessante, è scoperto l'acqua calda, ossia che la moneta d'oro vale. Cioè, hanno distrutto i beni per loro, era ovvio che non facessero delle colonnine. Lo facessero per loro stesso, perché loro hanno un valore. E come prima ho detto, chi spera di trovare questa sera soluzione sui errori, investimenti finanziari sarà deluso, e altrettanto deluso sarà chi spera di trovare convalidazioni alle sue credenze anche scolastiche, magari loro di per sé, mi riferisco laureati o che ha fatto dei corsi nella materia eccetera, loro di per sé non hanno un valore. Loro non è neanche il metallo più prezioso, nel senso di più raro, non è ovviamente il metallo migliore, perché il migliore in questo campo non esiste, dipende da quello che ci devi fare. È molto ricercato per determinate cose, per altre non vale assolutamente nulla, e soprattutto oggi come oggi, che ne dicono gli esperti, non è in una quantità, un po' come il petrolio, non è in una quantità tale da poterci permettere un suo uso in tempo come moneta. Questo poi tecnicamente lo affronteremo in seguito. L'oro ha una sola caratteristica, che è quella psicologica, che vi dicevo prima, anzi, beh, due caratteristiche, quella psicologica è quella che ha mantenuto per un certo numero di secoli, uno strato incappuale rapporto con il mondo della produzione. Ossia, parlando dei mercati a cui vi ho accennato prima, facciamo dei conti molto semplici, no? Se al mercato io posso 3 pere e dispongo di 3 lire, io posso comprare la pera ad 1 lira, giusto? Ok? Ma se io muovo i milioni di lire, 3 lire, di prima 6 lire, il mercato automaticamente, vista la nuova liquidità che è ben dimesso, ha 3 prezzi. A 3 prezzi e disponendo di sole 3 pere, i prezzi automaticamente raddoppieranno, perché ognuno tenderà ad accaparrarsi ovviamente, vendere il suo bene per il prezzo massimo, no? Questa cosa i commercianti fanno benissimo, una cosa particolare. Io vendo al più possibile il mio prodotto, cerco di avere il massimo con il minimo sforzo. Quindi questo vi insegna, e questo lo dicono anche i studi ortodossi, gli accademici dell'economia, che la disponibilità della moneta è direttamente proporzionata al prezzo dell'oggetto in questione. Quindi l'importante, secondo loro, è non avere troppa moneta in un dato circuito. Perché allora ho detto che l'oro ha avuto un legame casuale? Perché mentre la produzione aumentava, quindi il numero di pere aumentava, casualmente, aumentava anche la disponibilità di oro e quindi si è mantenuto fino al Medioevo, e ma noi parliamo delle monete, sono millenni che sono state inventate, la moneta come non fa, non c'è come la semplice conchiglia, c'è questo andamento in salita sia delle merci prodotte, quelle che oggi volgarmente si chiamerebbe PIL, quindi sia delle merci prodotte con la moneta atte a comprarla. Quindi immaginate in modo casuale tre tire, poi il giorno dopo qualcuno porta 6 tire e sul mercato sono disponibili 6 lire. Ok? Nel mondo c'era tanto oro quanto era il progresso della società. Quindi, diciamo che l'oro fino a una certa data, grosso modo il Medioevo, poteva essere considerato in effetti una moneta, tra virgolette, buona, poteva permettere di comprare quanta roba c'era in giro, quanta roba c'era sul mercato. E ovviamente nulla è lineare nel mondo, tant'è che con la scoperta di nuovi continenti e di nuovi imperi, come appunto gli Inca, che basavano sull'oro solo l'effetto, come diciamo prima, psicologico, ossia che era bello, ci sono costruite statue, gioielli, eccetera, mentre il nostro occidente, la nostra Europa era già sviluppata da questo punto di vista, ci fu in Europa le grosse di questi galeoni che portavano oro in un modo abnorme. È come una mareggiata che portasse in quel giorno particolare una moltitudine di conchiglie e quindi sbalava tutta l'economia del posto, no? Era come se il mercato invece di 3 lire, sotto 3 lire, 30 lire. Ok? Quindi immaginate i galeoni, quelli che sono arrivati, perché moltissimi sono diversi, che arrivavano e sbarcavano in Spagna, in Portogallo, in tutti i domini imperi dell'epoca, cariche di sconfermate di oro, quanto doveva portare un galeone da strapieno, affondavano a volte per probabilità, e i capitani di queste navi volevano riempirle a più possibile. Quindi l'oro, io sospetto che sia solo un effetto psicologico, perché abbiamo detto che tecnicamente oggi non ce n'è più abbastanza terra, ossia noi produciamo una quantità tale di beni, che lo possiamo sapere, il numero è talmente elevato, siamo talmente tanti, che non basta il oro nel mondo. Nel mondo ci sono poche migliaia di tonnellate d'oro, ne servirebbero miliardi, ok? Siamo due ordini di grandezza, no? Uno di grandezza è 1.000, due ordini 1.000.000, quindi l'oro non basta, quindi dobbiamo abbandonare l'oro. Questo nel giorno nostri, però noi oggi viviamo delle cose che ci portiamo dietro da secoli, specialmente nel settore bancario, al di là di quelle parole, banca rossa, capitale, pecunia, pecora, tutte queste cose che sono simpatiche tra più settimane sinistra, no? Si dice pecora, perché in realtà noi oggi ci portiamo dietro in campo monetario è appunto questo fatto della moneta. Quando due persone nel palazzo si scambiavano dei beni o dei servizi, tipo gli faccio un tavolo e tu mi aggiusti il pezzo, ed era fin da lì la transizione, abbiamo visto che con il passare del tempo come è inventata questa moneta. Ma questa moneta, inventarla come il concetto va bene, ma fisicamente come si fa una moneta? Chi la fa? Chi detiene il potere di fare una moneta? Chi ne giudica? Chi ne decide il valore? Chi giudica se questo valore è giusto o meno? Abbiamo parlato ad esempio della moneta d'oro che si è diffusa da già anche domani, non ho l'ultimo monete d'oro, nonostante pagasse loro soldati, finito l'espandersi dell'impero romano, ossia, guarda caso, l'impero romano si espandeva esattamente dove erano le miniere d'oro, se voi prendete una cartina dell'impero romano, è una cartina geografica, o meglio geologica, non so come si possa dire, dove sono le miniere d'oro in Europa e in Asia, e quasi coincidono. E quasi la stessa cosa è successa un po' per l'impero inglese. Quando vedete quelle l'impero romano nel terzo secolo dopo Cristo c'ha tutte quelle curve strane, non si sa perché l'hanno conquistato così, che mandavano dritte, perché non gli interessava lì. Tu al mondo inverso, gli giri intorno, arrivi a conquistare quel posto, quella valle dove c'è una miniera d'oro e poi lo indietro, no? Ti fai un forte, ci metti un sentito militare e ti porti via l'oro. Oggi queste cartine guarda caso cambiano, ma come scontano dove sono i giacimenti di petrolio. Se vuoi vedere una cartina geologica è una dell'impero o dell'influenza americana, anzi americana non è che possono avere l'impero, coincidono. Perché prima il deserto gli giravi intorno perché morivi di sete attraversato, oggi sono i tempi delle tecnologie eccetera, e oggi questo cartone comprende i deserti perché dopo a questo deserto c'è petrolio. Non si va a capo gli imperi. Tant'è vero che sempre durante queste conquiste a volte le zone venivano lasciate fuori, perché non erano di nessuna strategia averle, né economica, né politica, né nulla. Quindi dicevamo, una volta messo che l'oro è un valore, che un valore fosse stato mai, non lo so, Ecco, quando parlavo di congiuntivi parlavo proprio di questi casi qui. Ok? Pensiamo che l'ora di tempi sia un valore solo dal punto di vista psicologico, è pur vero che questo è stato valutato come moneta. In che modo veniva creata la moneta? E da chi? Se l'oro veniva trovato in pepite, in filamenti, in polvere, in altri mille modi, quindi veniva trovato in qualsiasi odore, occorreva in un certo modo trasformarlo, perché tu non potevi andare, sì, quando dei più western, quello che con la vetina, ok? Ma veniva comunque accettata quella vetina perché era in previsione di una trasformazione, tecnica, appunto, per farla diventare moneta, guarda caso, rotonda, eccetera, eccetera. Questo non avviene in maniera libera, non è avvenuta in passato in maniera libera, oggi meno che mai, però all'epoca almeno c'era un certo numero di privati che poteva fare questa operazione. Questa operazione, che si chiama operazione di conio, quando tu fai una moneta, fai un conio, veniva effettuata da persone particolari, persone che avevano una certa autorità a farla. Questa persona era appunto l'autorità del tempo, era appunto un signore, no? Un signore di un feudo, il cosiddetto signore del castello, che nel fare questa operazione di conio, che per lui non comportava altro aspetto che la lavorazione tecnica, in quanto l'oro gli veniva portato, c'erano due casi ovviamente, che lui possedesse del miniero o che l'oro gli venisse portato. Nel caso che l'oro gli venisse portato, lui effettuava questa coniazione con un guadagno per sé, ossia, così la vediamo, un concetto molto semplice e che se ne tira in giro su internet, eccetera, per il signoraggio. Il potere di un signore, quindi di un privato, di una persona che con l'uso della forza ha preso il dominio di un territorio, e non con un aspetto democratico, dava a questa persona l'autorità di decidere quel quantitativo d'oro quanto valesse. Dice no, che l'oro valesse da un valore di per sé, ha un valore cospetto intrinseco, no? Con una propria interna che è intrinseca. Come mai questa persona aveva questo potere? In che modo lo sviluppava? Lo sviluppava attribuendo, in modo totalmente arbitrario, un nuovo valore superiore al valore dell'oro presente nella moneta. Un esempio in soldoni è che se una moneta tu ci metti 9 grammi d'oro, e ad esempio diciamo che un bene reale come deve essere, non so, una mucca, ok? Il mercato nel senso di locale di scambio, un ambiente di scambio, aveva detto che la mucca valeva 10 grammi d'oro, io te poteva comprarsi quella mucca con 9 grammi semplicemente dicendo, dando un nuovo valore superiore, appunto 10, a una moneta che conteneva un valore inferiore, ossia 9. Questo è un grande potere, no? Perché il contadino che voleva 10 grammi d'oro della sua mucca, perché aveva una certa avuto delle certe spese per sostenere lo sviluppo di questa mucca, per lui era la sua merce, veniva in pratica usurpato, ok? Di una certa quantità di valore, che in questo caso era il 10%. Ossia, il re, che era l'autorità, e quindi curava l'aspetto legale della questione monetaria degli scambi commerciali, apponendo la sua faccia su una il suo viso, appunto sulla faccia della moneta, e da questo deriva anche il detto metterci la faccia, ossia che se metteva il suo segno su un pezzo di metallo, dall'altra parte metteva un valore superiore al valore del metallo stesso, ossia 10 grammi contro i 9 grammi che il pezzo di metallo conteneva, infatti questo signore si autoarricchiva del 10% della moneta senza aver dato nulla in più, ok? Questo concetto è molto semplice, no? Questo è un grosso potere. Aveva creato un decimo di moneta in più. Lui aveva diritto, con 9 grammi d'oro, a comprare 9 decimi della mucca. In questo modo, grazie al suo potere, ovviamente anche militare, quindi politico militare, perché il re in sé, il re, gli imperatori, i signori, i castelli, i signori del Medioevo, avevano questi poteri concentrati in sé. Non c'era democrazia, non c'erano votazioni. c'era un tizio con il suo esercito, ok? Questo tizio era l'unico, visto che lui stesso faceva le leggi, era l'unico abilitato a creare moneta, a dare valore ad un pezzo di metallo. Ma se quel pezzo di metallo aveva già valore in sé, perché era composto di un materiale, tra virgolette, nobile, come l'oro, che ricordo, come ho detto prima, non è l'oro importante, l'importante è la mucca. L'oro ha, per esempio, sull'isola deserta, con l'oro non c'è nulla, ok? Hanno importanza altre cose, non è un bene fondamentale l'oro. Quindi non è vera ricchezza, la vera ricchezza sono le cose che noi produciamo, allevando, creando da nulla, eccetera, o i servizi che noi spediamo. Quindi questo signore aveva questo agio, da cui signoraggio, tutto qui signoraggio, la parola signoraggio, di poter dire e di far accettare ad una comunità con la forza, con la sua azione politica, che una moneta da 9 valeva 10. Questo è un enorme potere, perché mentre 9 grammi d'oro, come dire, avevano trovato una loro rispondenza nella mucca, ora questo signore è grado, senza effettuare nessun lavoro, solamente con la sua autorità, con un tratto di pietra, torniamo al segno, la potenza dei segni, ad esempio il campo religioso, aveva questo potere di, questo potere, quindi questo guadagno, quindi questo agio, di determinare un aumento di quella moneta. Pensate che voi avete questo potere, prendere un pezzo di carta, scriverci sopra l'equivalente del conto della spesa che avete appena fatto. Quella dice, quanto è la spesa? 150 euro. Tu prendi un pezzo di carta, scrivi 150 e lei lo accetta. Prende una porta, no? E lei aveva questa porta. Quindi il signoraggio è questo. Il signoraggio è la differenza tra il valore di facciata perché stava sulla faccia moneta, e con anche il valore nominale, perché era valore nominale, non era valuta vera, o anche valore legale, perché era il re, e poi vedremo che gli stati, i primi anni, davano questo valore, e il valore intrinseco, la differenza tra quello che dichiarava e quello che era, quello è il signoraggio. È un grosso potere, pensateci bene, è tutto qui il signoraggio. È un grosso potere decidere per gli altri che cos'è la realtà. E qui torniamo al discorso delle verità, la verità non esiste. La stessa moneta da 10, se il re, in un momento di bisogno, dettato praticamente dall'avidità, dalle spese smutate, eccetera, la riempisse, la veste di vita, la veste coniata impiegando solo 8 grammi d'oro, era comunque da 10. Se ne impiega 7, era comunque da 10. Capite il potere di creare moneta da nulla? In questo caso non è propriamente da nulla, perché devi comunque avere l'oro iniziale, ok? Tu ti puoi mettere solo la faccia, solo la forza, solo l'autorità, e la rendi di quel valore che tu vuoi. Ovviamente con vari due modi, la moneta da 10, forse scrivi 100, 300, 300, o la moneta alimenti da 10, ci metti 7, 8, 6 scali. Ci sono due idee, quale puoi muovere, dipende da te. La moneta vale bene, non è che si tratta di meno, non è che se ne accorgevi così, perché vengono messi altri materiali, che non piombo, altri materiali inerti, non nobili, e quindi faceva economia su altri materiali e cercava la differenza. C'è un limite a questo signoraggio, e anzitutto diciamo che la popolazione a denti stretti lo accettava per vari motivi, uno perché quello che aveva l'esercito, se ti diceva questo pezzo di oro valeva 10, tu dovevi dire sì, gli davi la mucca. Anche se la mucca in realtà è una cosa reale, è un bene reale, questo era solamente un segno. Seconda cosa, il contadino diceva, va bene, tu mi hai dato 10, io mi faccio da 10. Era una truffa accettata da tutti e quindi suddivisa. Questo però, il fatto che io ricevo una cosa, da 10 dal mercio del 10, pur essendo 9, non rende meno truffa la truffa. Perché io sono stato il primo a rimetterci, chi prende i soldi per prima è quello che ci rimette, perché deve cedere un suo bene reale, per il quale lui ha lavorato, ad un costo inferiore di quello che gli spetta. E il fatto di passare ad un altro non è che media, ruffa, camminizza, ok? L'aspetto di tutto questo facendo, noi non dobbiamo vederlo quanto ci conviene tra di noi, perché poi tante persone pensano, vabbè, ma tutte queste cose mi interessano, io ricevo una banconota da 100, ho lavorato da 100, stasera vado a cena e pago una cena da 100. Tutte queste cose noi non dobbiamo mai perdere di vista il re, perché fossimo solo noi, tra di noi siamo bene, tra di noi sì, quello ha due prezzi, ma io lo credo, gli metto meno benzina carburante, la terra la parte bassa del popolo, il progetto popolino, si diventa sempre, non è un problema. Il problema è che con questi meccanismi, come vedremo che sono stati anche amplificati dai signori che vengono dopo, che sono stati molto peggiori di questi re, imperatori e signori, il problema è che sono loro che attrezzano potenza. Voi non dovete pensare, vabbè, che mi importa che la zanzara mi ha tolto un milligrammo di sangue. Voi dovete pensare che, in fine della scienza, questa zanzara, togliendo un milligrammo per uno, è diventato un brutto padre, cioè è diventato un padre che può fare i bambini. Quindi poi non dite, ah, hanno portato via la zanzara, lo togliamo mio figlio. Quando è tolto un milligrammo di sangue, lo vedi. Quel milligrammo di sangue per uno rende mostri che poi, se indirettamente dal punto di vista della nostra concezione, diretti dal punto di vista rapido e monetario, persone che poi ci dominano. È come stare con, noi siamo tutti la stessa porta, quindi nessuno in questo modo ha paura di un altro, però vediamo un tizio che viene lì e ci ruba da mangiare, un po' per uno, poi diciamo, ok, io avevo 10 di riso, mangio 9 da lo stesso, quello mangiando 150, acquisisce una forza enorme e prima o poi ti tocca. Io ho fatto l'esempio della... perché per te dico, vabbè, che me ne serve per lo stesso dei soldi. A pesar che Berlusconi è uno come noi, perché parlando di ordine di grandezza Berlusconi è come noi, anche 2 miliardi, noi abbiamo migliaia di euro come noi, e ci sono persone nel mondo, per accomodare teorie degli alieni, eccetera, ci sono persone nel mondo che hanno una forza tale, ok, la forza che dicevo prima, che prendendo un po' di direttiva, di direttiva sono diventate dei pericoli. Quando tu hai un elefante in una stanza, e quello poi quando va a sedersi, si siede, tu dici a me che mi prendo, e anche lì, come dicevo prima, l'uomo spesso tende ad assumere nei confronti di argomenti nuovi e ottici, specialmente nella maniera in cui descrivo io, delle scappatoie. Non dice, vabbè, a me che me ne frega, tanto forse tocca a quell'altro. Dice sempre così. Quindi voi immaginate di essere a cena con un cannibale. È una cena, una tavolata lunga, ci sono tantissime persone. All'inizio tutti mangiavano. Quando comincia a finire a mangiare, ci sono persone che cominciano a rubacchiare agli altri degli altri. E tu dici, che me ne frega, non tocca a me. Sarò partito. Questa persona diventa sempre più forte. Poi finisce veramente tutto il cibo. Noi, come abbiamo detto prima, l'uomo fondamentalmente è buono, l'uomo si adatta, tira a campare. Queste persone invece sono leggermente diverse. Ecco perché quando parlo, a volte sento parlare di alieni o di cose, gruppi, etnie particolari, non gli do molto tempo tanto dal punto di vista pratico, perché in effetti queste persone sono diverse da noi. Questi banchieri così abili sono diversi da noi, hanno un istinto predatore, veramente che è un qualcosa di non umano. A me non interessa se hanno la lingua fin sul culo o meno. Di sicuro sono dei predatori. I predatori fanno predare me, che prima o poi prenderanno me. Quindi tu sei in questa tavola e dici a me che me ne frega. Poi tu cominci a dare un mostro con un altro, ok? Ti stacca un braccio. Che me ne frega? Se ci attaccavo tavola, io sto di qua. Quelli che sono un po' si organizzano, fanno, ma mi distraggono pure. Dobbiamo anche capire, perché mentre io sono impegnato in altre questioni, io devo andare a campare, sono detto, io sono una brava persona. Non posso scendere in piazza con te perché lo danno un mostrico, ma cavoli tuoi, vedi da te. Ma quello che mostrico se lo mangia, questo. Se mangia quello, se mangia vicino, e diventa sempre più forte, e diventa sempre più debole perché il mio ciclo è finito. Quindi la bilancia comincia a muoversi e tende dalla parte sua, tende da una parte. Poi dice non è più un potere contrattuale, nessuno ti ascolta, è quello che ti ha messo te. E quello che ti ha messo te, tu ogni modo che lasci, che non sciogli, prima o poi lo ritrovi. La zanzarina che compagna il tuo figlio, quella te la ritrovi, è permesso. Tu appena senti un pizzico, tac, hai una fa. Ok? Come dicevamo, visto che questo signore del castello aveva questo enorme potere di dichiarare ciò che non era, ieri ciò che era 9, aveva anche però, da un certo punto di vista, proprio a portare la mano, secondo lui, qualcuno del materiale, sorgeva un servizio. La moneta con la tua faccia era valida per tutto il suo impero. E quello mi era comodo. Perché io quando compravo le mie buche a un prezzo lontanissimo mi prendevo una moneta che potevo tenere sotto casa per un servizio. Dentro di me gli davo un certo valore e riconoscevo che non era il valore che il re gli aveva dato, per esempio il 10%, e magari mi incazzavo, ma quello aveva l'esercito. Tutte queste leve, tutte queste variabili in questa equazione, negli anni si spostavano. Il re, invece di mettere 9 grammi, ne metteva 8, e già io lì cominciavo, capito? L'esercito già non vedo più una cosa imbattibile, perché poi si sa, no? La rabbia monta, le incazzature montano, si uniscono e ci sono le ribellioni. Quindi anche il re doveva stare un po' attento a rubare più di sotto. E allora, come dicevo, il popolino subito, non è? Quindi, come prima, al mercato c'erano 3 pere e 3 lire, e una pera veniva venduta ad una lira, se tu mi dai uno dei due elementi, il prezzo poi si riadatta, perché una legge del mercato ha fatto il prezzo di riadatti. Quindi tu, se invece di 9 grammi sei un bravo padrone e mi ci metti 5 grammi, che mi dici che sono 10, io la mia mucca non prendo più un pezzo di moneta, voglio 2 monete. Ok? Ecco perché i prezzi salgono. Perché se tu, il re, con 9 grammi per una moneta da 10, e con gli stessi 9 grammi ne fai 2, mettendo 4,5, 4,5, 4,5, tu hai dato per la tua capitale. E io mi danno un po' sottile, ok? Perché altrimenti tu mi porti via tutto. E così ne fai testato, no? Il re per più ricchi e il popolo per più povero. Il medioevo è uno dei secoli più cui, anche in questo caso della mancanza reale di moneta, perché veniva accentrata tutta in pochissime mani. Poi abbiamo anche detto che questo re, per quanto fosse bastardo e abito, non è stato il peggiore dei mali. Perché? Perché il re aveva il limite fisico da poter rubare. Più di 9 grammi non puoi rubare. Non puoi tirare 10 una cosa da zero. Puoi provare, forse per un giorno, a ingannare la popolazione facendo una moneta di piombo. Tu ti viene tutto l'oro per la moneta di piombo e scrivi 10. E per questo la gente ci non si cava le monete. O le grattava con delle lame per vedere se era vero. E mentre percentuali che variano del 10-20% è difficile accorgersene, con percentuali maggiori la gente poi imparava ad accorgersene e scoppiava delle rivoluzioni. Quindi io se un po' per esperienza, un po' per limite fisico, non può rubare più del suo signoraggio. Lui decide quanto è il rischio. Lui conosce i suoi polli, conosce la popolazione locale e sa quanto vuole rubare questo signore. E quindi il signoraggio è un male. Purtroppo il rispetto si è fatto, perché noi viviamo in una sorta di circolo, no? Di catena alimentare, ognuno trova sempre un pesce più grande del colonaggio. Il rispetto è stato ingannato da un altro personaggio, che era l'oraco banchiere. Voi immaginate, ecco, un tizio con un spignetto simile che stava su un banco ed operava cambi di queste monete, perché diciamo che l'oro in sé è una cosa internazionale, ma il re no. Quindi il re di Francia metteva una certa faccia sua sulla sua moneta, il re di Spagna un'altra, il re d'Italia un'altra, eccetera. Quindi queste monete erano uno diverso dalle altre, poi si consumavano, poi erano false. Ci volevano degli attori, quindi facciamo così, degli attori abili a gestire queste transazioni, per appunto gente che loro conosceva bene, ossia gli orafi. Queste persone hanno iniziato a prendere appunto delle monete e cambiare una con le altre, veniva lo straniero, lo cambiava con la moneta locale, prendeva monete vecchie, dava monete di nuovo coni, eccetera, e hanno cominciato a fare anche un'altra cosa, che era quella del deposito. Perché una volta che tu hai cambiato la moneta con l'oro, tu non vai in giro con un pezzo d'oro in tasca, hai paura di perderlo, perché quell'oro, e questo è grave, è stato grave da parte del nostro, dell'uomo, tu hai perso di vista che quell'oro era solamente il segno, non era vera ricchezza, ma era ciò che ti permetteva di accedere alla ricchezza. come, non so, la chiave di casa ti permette di accedere all'appartamento, ma non è l'appartamento. Se tu ti perdi la chiave di casa non è che ti ammazzi, mentre te la, o l'appartamento, un pensierino ce lo fai, specialmente dal tuo unico appartamento, no? Questo per dire la differenza tra assegno e realtà, e ricchezza vera. Quindi per questo d'oro, quindi l'assegno non valeva nulla, se non perché permetteva di accedere, era diventato di volto molto prezioso. Io ho portato una mucca al mercato, sono mancato un pezzo d'oro, ma ho perso una mucca, la potenziale mucca. Quindi dovevo riporlo in un luogo sicuro. Come la mucca la metto nella stalla, anche le monete d'oro avevano una loro stalla, che era appunto l'orafo. Quello lì del paese aveva i suoi bauli blindati, aveva i suoi cavò, i suoi grotte dove nascondere l'oro, addirittura i suoi grossi orafi del passato, addirittura degli eserciti personali. E quindi il contadino, una volta scambiata la mucca, una volta entrata in possesso dell'oro, porta questo oro all'orecchio che me lo custodisce. Ora bisogna fare un po' di attenzione alle parole, tanto sono quattro parole diverse, non è neanche da ricordare. Il banchiere, allora, scusate il lapsus, ma tanto ci avete perso anche voi, il banchiere prendeva pure in custodia l'oro. Non era il suo, era di vostra proprietà. Come la macchina che lasciate sotto l'ufficio, all'omino del parcheggio, non è sua, è vostra. Voi lasciate la macchina, andate a lavorare e lui conduce la vostra macchina. Ora gli italiani, gli tocchi la moglie, magari ci fanno anche una ripetina con la telecamera, gli tocchi la macchina, c'è l'omocello, no? Voi immaginate che state al lavoro e dalla finestra vedete la vostra macchina che è in giro. E dice, dove cazzo va quella? La macchina mia, nuova, nuova. Dice, dove teneva in giro? Con la vostra macchina. Di sicuro vi incazzate. Cominciate a pensare all'oltraggio personale, la metto sul suo culo dove lo metto io, e che ci fa entrare la macchina, e dove fa andare, ma che tutto chi mi ha dimenticato a prenderla. E poi gli ha lasciato la macchina, gli ha lasciato le chiavi. E quello è la persona, è un essere umano, c'è le sue debolezze, c'è dei traffici. Ok? Questo per dire che le vostre macchine non fanno piccoli, ma quasi le riportiamo. Se qualcuno va in bagno, non vede la propria macchina, non si vede dove va. Quindi questa persona ha avuto un'arroganza, in pratica vi ha rubato la vostra macchina per quel periodo. È anche vero che voi non la usavate, quindi sostanzialmente non è che abbia fatto granché di male, no? Noi sappiamo oggi dal punto di vista ecologico che ogni macchina costa posto per pintare tonnellate di acqua, così che c'entra, c'entra perché se tu pieghi una maniera di fare le lavorazioni, poi c'entra sempre l'acqua nel ciclo produttivo, ecco perché le prime parti che nascevano lunghi corsi d'acqua, sia per prendere energia, sia per raffreddare i macchinari, eccetera, eccetera. Ogni cosa oggi è riconducibile all'acqua, anche dello stesso petrolio, e viceversa. Quindi, sostanzialmente, se volete fare una macchina della Madonna e poi la tenete parcheggiata, è un spreco dal punto di vista dell'ecologia. Sarebbe anche giusto che qualcuno lo fa. Ma dal punto di vista del diritto non è così, è soprattutto personale, intimo, come dicevamo, e quindi nessuno può toccare la vostra macchina. Però, a parte la battuta della moglie, che non mi interessa fino a un certo punto, se la sua non ne parliamo, la moneta però, quando la mettete in banca, viene... Io dico voi perché su di me ci ho parlato, non è proprio di tutti i colori, quindi adesso per un po' di tempo dico voi, ne intendo sempre noi. Ve ne fregate del vostro monetone d'oro che cosa succede quando vi date in mano a un'altra persona. Vi sentite al sicuro, giusto? La macchina parcheggia, la moneta dall'oraco. L'oraco, però, anche lui, Urello, non poteva vedere tutto quello d'oro fermo in quella maniera. E che cosa ha fatto? Lui non era nient'altro da fare, non aveva la legna, come magari da fare dei buoni. E quindi un altro giorno lui stava lì e si comprava queste monete, come il paperone, si lucidava, eccetera, eccetera. Poi portava una moneta, lui veniva un pezzo di carta, quindi ricevuta, no? Quindi andava a teatro, lasciava il cappotto, quindi gli danno una ricevuta. La ricevuta è come la chiave dell'appartamento, no? Con la ricevuta non ci fa nulla se non entrare in possesso della vera ricchezza, che è il cappotto. Ok? Questo è uno dei pochissimi concetti che veniva a mente, il segno e la ricchezza. Quindi questo tizio, a proposito dei termini che attraversano i secoli, Quindi ho un foglio di carta, scrivere una nota sul banco, quindi banconota, nota di banca, dati banco, in cui attestava che voi eravate in grado di riprendervi il vostro pezzo d'oro. Quindi lasciavate un pezzo d'oro e scrivere un pezzo di carta. E tu tornavi a casa, ti dice tranquillo, un pezzo di carta ben piegato dentro il grande o anche in altri posti inaccessibili, e tu tornavi a casa, ti dice, tu mi dici, la mucca dove sta? La mucca non ci sta, e mo che c'è ciò che dice, che c'è da con te? Perché la mucca è un pezzo di carta, e giù cose. E tu volevi spiegarla, guarda, no, tu perché sei, infatti che sei femmina, devi spiegarla perché è stronza, la devo, no? Se no che non hai capisci, questa è un'invenzione umana. Io questa carta, capisci, io questa carta, prima con la mucca la scambiavo con tre pecore, con la mucca era di tre pecore. Certo, io con questo pezzo di carta, quello non mi dà tre pecore, se tu non ti preoccupare. Con questo pezzo di carta vai dalla rovetice, giù in città, tu gli dai un pezzo d'oro e quel pezzo d'oro vedrai che ti danno tre pecore. Ah, questa è intenzione. Capito la banconota di intenzione? Già il baratto non era sufficiente, è stata inventata quindi una moneta che aveva, chiamiamo così, un valore intrinseco, se vogliamo accettare questo fatto dell'oro, abbiamo di per sé, l'oro come metallo. Aveva un valore intrinseco e un valore nominale, che era quanto detto fuori, quindi già c'è una piccola fregatura, per esempio però l'accettiamo, un po' quello c'è le armi, un po' c'è il servizio, diciamo che il segnalaggio è un male, perché prevede l'esercizio di un potere coercitivo su una cosa monetaria, economica, che, visto che buttiamo un attimo la filosofia, è veramente il malvagio veramente c'era che tu impiegavi il tuo tempo per lavorare. Quindi questa persona, come quando si fa in Alemania, no? Ci sono persone che fanno il passaggio tutti insieme, altre che hanno bisogno di passaggi per arrivare allo stesso risultato. Il re, il signoraggio, faceva sulla sua vita, dice esagerato, per 10 grammi, cioè cambiando di piombo la mia vita, la tua vita, perché tu avevi lavorato, quindi avevi impiegato tempo per fare un bene reale, la mucca, il cesto di patate, quello che era, l'avevi ceduto a una persona che aveva deciso lui di cambiarla. Lui accede alla tua mercanzia e quindi alla tua vita tramite un simbolo, tramite un potere politico, che è quello di cambiare il valore. Capite che cos'è veramente il signoraggio? Io prima l'ho accusato in maniera più soft, più superficiale. Una persona va in grado di dire cosa vale un qualcosa che accede a un qualcosa di vero, di vitale, come il tuo lavoro, perché noi dal nostro lavoro facciamo sottraendo tempo a noi stessi, no? A dire, non si vive per lavorare, e che ne dicano, il lavoro non significa, ok? Il lavoro è una schiavitù. E poi vediamo perché il lavoro è una schiavitù particolare, più del lavoro forzato, del forzato, eccetera. Quindi diciamo che c'è una persona che con un semplice potere politico riesce a gestire la sua vita, il suo tempo, eccetera. Quindi dal momento che quella era diventata moneta che veniva depositata da un privato, direi, se vogliamo, possiamo considerarlo anche una sorta di prestato, no? Prestato, prima dello Stato, perché è ovvio che non era una cosa democratica, però era comunque una cosa che aveva prima della guerra per difendere il proprio popolo, se voi non vedete in un'ottica romantica. Quindi, però, il re, qualcosa del popolo ce l'aveva sempre. Anche pure la destra che il popolo ogni tanto tagliava, quindi un legame tra re e popolo c'era. Questi nuovi signori, i banchieri, che ora quei banchieri che poi diventeranno franchieri, che cosa facevano? Con un pezzo di carta ti garantivano l'accesso al tuo oro, quindi al tuo lavoro, quindi alla tua vita, al tuo tempo libero, quindi alla tua vita, con un pezzo di carta. Il pezzo di carta ovviamente costa zero, cioè loro costo irrisorio rispetto al volume di affari che giravano. Questi banchieri ovviamente hanno capito una cosa molto importante. Non avendo contatto durante il giorno di trattare i numeri, sempre gli affari conti, tre monete dal macellaio, hanno visto che persone non venivano più a ritirare la loro moneta fisica, quindi la loro ricchezza fisica, in mente vostro, sempre le ricchezza, loro non ricchezza, eccetera. Quindi la loro ricchezza fisica rimaneva ferma e cominciavano a girare solamente le vesti di carta. sentiva esplicata, non rientravano, ossia la moglie di quello che era ammazzato, no? Le bastonate, non è andata a prendersi il pezzo d'oro per scambiarlo con le tre pecore, ok? Ma per strada ha trovato quello che vedeva le pecore, e detto: io sono andato lì, ti prendo il pezzo d'oro, te lo porto, e tu mi dai le pecore. E questo: no, ma non mi porti, poi tu mi porti questo pezzo d'oro, io devo andare dall'orafo e lui mi deve fare un altro pezzo di carta, perché lei avrebbe portato un suo pezzo di carta, quello l'avrebbe strappato e avrebbe dato l'oro, lei con un pezzo d'oro per andare da quello delle pecore, quello delle pecore gli avrebbe dato le pecore, lui, il pecoraro, sarebbe tornato con il pezzo d'oro, avrebbe ridepositato e il banchiere avrebbe riscritto un'altra banconota. Quella di prima era di sopra, quindi quella è ancora la certa. Una carta che vuole un'altra carta. Esatto. Sa cosa ha detto il re? A Roma, a Roma. Ai romani. Dio mio, salva il re. E invece i napoletani era più furbi. Dio mio, salva a me, l'ha detto, non il re. Sì. Era detto dei romani o si può dire? No, quello era dei romani, era a Roma il re. E i napoletani. Sì, ce l'avevo. Dio mio, salva a me, l'ha detto, non il re. Allora, quando la signora invece di andare a fare questo giro incontra il possessore di un altro bene reale che era un pastore pecore, che racconta questa storia, questa è una cosa che ci succede, noi a volte ci incateniamo da soli, con le nostre paure, con le nostre furbizie, con la cosa dice, ma io se ne prego. Dice, senti, ma facciamo così, facciamo prima. Ma che sto verso le carte, no? Quando mi servirà loro ci vado io. Quella che magari, non dico che aveva telefonato perché non c'era, che aveva appuntamento con l'orafo, l'orafo non la vede arrivare. Perché? Perché lo scambio di carta contro carta, come diceva, era già avvenuto per strada. Quella se l'era portata a casa, gli aveva dato il pelo e prendeva la carta. Quindi cosa era successo? Che nel paese quanta ricchezza c'era? C'era la mucca di prima, le tre pecore, un pezzo d'oro e non c'era questo pezzo di carta. Tutto stava in giro. Non c'erano libri contabili, ce l'aveva solamente l'ora per banchiere. Però come vedete c'è stata una duplicazione. Mentre il re doveva battersi a fare lì a fondere, piano più, volante sotto, eccetera, quest'altro signore aveva messo in giro un pezzo di carta e la popolazione aveva accettato perché la popolazione furba. E in realtà c'erano due ricchezze, in realtà una era simbolo dell'altra. Questa serviva per accedere a questa e questo serviva per accedere alle pecore. Quelle ricchezze sono le pecore, ok? Però adesso nel paese c'erano tre pecore, una mucca, che c'erano di loro dovevano essere scambiate. Quindi questa è la situazione, ok? L'orafo aspetta un giorno, aspetta due giorni, dice: come mai qui loro non sono venuti a riprenderlo? Qui è venuto un macellaio in ieri, oggi viene alzato, ma io ci sono 10 pezzi d'oro. Ci sono 10 pezzi d'oro che mi hanno perdonato e nessuno si riprende. Perché? Perché io sono una carta, che lui stesso non viene in giro. Quindi ogni pezzo d'oro è un suo pezzo di carta, questa era l'economia all'epoca. Giravano tanti pezzi d'oro, tanti pezzi di carta che erano delle ricevute, come tanti chiavi per tanti automobili. A questo punto si verifica quello che dicevo prima, alcuni sembrano alieni, suo corpo non era così buono come gli altri e ha approfittato di questa situazione. Tecnicamente questo si verifica, tecnicamente, cioè, ad esempio con i viaggi in nave, no? Erano molto pericolosi i viaggi in nave e le persone molto ricche, i commercianti, anche i re, nobili, eccetera, lasciavano dell'oro presso un orfo.